Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica, il 3 giugno, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero come ogni settimana e come ogni settimana anche oggi giocheremo, cominciamo subito così alle 11.30 con il mistero in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa fino a 1000 euro da spendere in libri digitali oppure cartacei, ammesso che riusciate a risolvere il mistero che come sempre può essere un personaggio o qualcosa riconosciuto o una delle notizie della settimana. Il primo indizio, eccolo qua. Sabato pian piano se ne va. Una canzone molto famosa che avete sicuramente riconosciuto e per prenotarvi, vi ricordo che si giocherà intorno alle 11.30, il numero verde 800 24 00 24. Nella puntata di oggi torneremo indietro nel tempo. Io avevo 6 anni e poi un pochino più tardi, poi con avuti 7, 8, 9, ho cominciato ad andare alle medie, 10, 11, 12, vedevo attaccati ai muri dei volantini, no? Che parlavano di un festival, il festival di Renudo, e io mi domandavo cosa potesse essere un festival chiamato Renudo. E mano a mano, insomma, gli anni 70 li ho vissuti, però insomma ero piccolo per capirli, poi li ho conosciuti sempre di più da vicino perché erano un po' gli anni importanti anche della vita, dai 6 ai 16 anni. E oggi parliamo proprio di quegli anni, perché a Milano è partita una mostra gratuita che sarà visibile fino al 2 settembre al Palazzo Reale a Milano, appunto, e la mostra si intitola Addio anni 70, al quale forse oggi metteremo anche il punto di domanda: davvero addio anni 70? Insomma, questa è una mostra su un decennio caldo sicuramente la politica italiana dove Milano è un po' il fulcro di tante vicende, non soltanto politiche ma soprattutto artistiche. Di questo poi si parla nella mostra, ma certo non ve ne parlerò io, ma chi la sta curando. Oggi parleremo proprio di quegli anni dal punto di vista della cultura in genere, non soltanto l'arte figurativa ma anche per quanto riguarda il cinema poliziesco tipico di quegli anni, la televisione che cambiò molto proprio in quegli anni e altro ancora. E vorrei sapere anche da voi che cosa vi è rimasto di quegli anni, se siete giovani, magari siete nati negli anni 80, se avete un retaggio degli anni 70, che cosa vi ricordate, cosa avete preso in prestito, magari avete un modo di vivere che ricorda un po' quegli anni anche se non li avete vissuti, oppure se li avete vissuti che cosa vi è rimasto nel bene e nel male. Il numero per i vostri messaggi 349 238 6666. Allora davvero addio anni 70? Non lo so, io vorrei cominciare con una canzone che in qualche modo li rappresenta. Acquario, questa è la canzone principe del musical Hair. Siamo proprio alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, un musical che fece anche molto discutere perché gli attori a un certo punto erano completamente nudi in scena e tra quelli italiani voglio ricordare anche Loredana Bertè e Renato Zero che cominciarono così la loro carriera artistica non tanto come cantanti ma poi anche come attori, almeno in quel caso sulla scena. E partiamo proprio dal 1969 e tra pochissimo a parlare della mostra Addio anni 70 dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Sono già molti gli sms che stanno arrivando con il vostro ricordo degli anni 70, cosa vi è rimasto, cosa ricordate, se in qualche modo li state ancora vivendo. 349 238 6666. Insieme a Paola Nicolin, Francesco Bonami ha curato questa mostra Milano anni 70. Francesco Bonami, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Allora, una mostra gratuita, un po' perché in quegli anni tutto doveva essere gratuito. tutto era gratuito in quegli anni, non c'erano i voti politici, sì. Tutto era gratis in quegli anni. Mi dà il voto da solo, io mi auto... mi auto del voto, me lo ricordo ancora. Era un periodo molto vivace, nel senso buono e nel senso cattivo, e erano anni che hanno marchiato l'Italia in modo quasi indelebile, e da questo viene il titolo Addio anni 70, il tentativo non tanto di rimuovere o dimenticare, ma il tentativo di metterli finalmente dentro una casellina storica e guardare avanti, prendendo e ricordando le cose buone ma anche quelle cattive di quegli anni, ma senza tirarli sempre in ballo con polemiche e come se fossero ancora vivi. Io dico, abbiamo verificato, gli anni 70 erano ormai quasi 30 anni fa. Sì, lo so, di più di 30 anni fa. Sono 40 anni ormai, siamo nel 2012, sì, per cui gli anni sono passati veramente molti. Allora, voi avete dato un'impronta più che altro artistica alla mostra, ovviamente, poi non avete potuto evitare di mostrare delle fotografie che raccontano alcuni eventi terribili di quegli anni, però senza entrare poi in quel discorso, semplicemente quello che avete voluto far vedere voi sono le immagini di quei momenti, dico bene? Esattamente, noi abbiamo voluto intanto concentrarci sulla parte artistica, non sulle altre branche della creatività come il design, la moda. Non volevo essere una mostra tuttologa, una mostra onnicomprensiva. Volevamo far vedere l'arte in quegli anni a Milano e le fotografie che lei ha citato, quelle che sono praticamente documentazioni di manifestazioni. Ci sono delle fotografie, per esempio, di Massimo Vitali che mostrano il manichino di Pinelli quando fu ricostruita la caduta di Pinelli dalla questura con un manichino. Sono fotografie di fotografi che a quel tempo rifiutavano di considerarsi artisti, anzi proprio era una posizione politica non essere considerati artisti. Essere artisti negli anni 70 a volte significava un gesto quasi, a come si diceva a quei tempi, controrivoluzionario, non essere individualisti e indossare i panni dell'artista classico e quindi reazionario era quasi impossibile, quindi c'erano tantissimi movimenti collettivi, si guardava anche all'arte in gruppo e questo viene fuori da questa mostra, anche se a Milano poi esisteva tutto un altro filone di artisti che quasi si ponevano in una posizione astratta, come Ugo Mulas e tantissimi altri artisti che, pur essendo coscienti di quello che accadeva per le strade di Milano, non sempre nell'arte la politica deve entrare per forza, no? Cioè, c'è chi comunque vuole rimanere fuori dal calderone di chi invece vuol fare politica attraverso l'arte. Credo che ci siano questa grande differenziazione di artisti. Ma sì, credo che ci siano. Ci sono degli artisti politici e dei politici che usano l'arte per fare politica, credo questa sia la differenza fondamentale. Ci sono gli artisti politici, quelli che usano il proprio linguaggio tentando di indirizzare quello che dicono verso il contesto in cui vivono, mentre ci sono altri che invece utilizzano appunto la propria politica e l'arte per dire delle cose ideologiche. Esatto, cioè quando l'ideologia, diciamo così, è un po' il fulcro, no? Anche della creatività. Ma succede questo, e Milano è un po' il centro, no? Di tutti quegli anni, da tanti punti di vista, e culturali soprattutto, ma non soltanto, appunto, come anche come eventi politici. E Milano quindi è anche il centro di questa mostra, o avete raccolto da tutta Italia? No, principalmente, diciamo, questa è una mostra a chilometro zero, abbiamo raccolto tutto da Milano, principalmente da collezionisti, dagli artisti stessi e anche da galleristi, perché bisogna anche ricordare che in quei tempi i galleristi non c'era un vero mercato dell'arte, nessuno comprava tantissima arte a quei tempi, l'arte non costava le cifre che costa oggi. E i galleristi erano quasi più operatori culturali che mercanti, e quindi hanno fatto un grosso lavoro di ricerca, hanno invitato tantissimi artisti stranieri a Milano, infatti alcune presenze straniere a Milano nella mostra, perché arrivavano a Milano in quel tempo artisti molto importanti di prima battuta, non come oggi che a volte andiamo a mostrare artisti internazionali ormai già visti e rivisti da altre parti e poi arrivano da noi. A quei tempi Milano era un magnete anche internazionale, europeo. Ecco, la mostra è stata inaugurata da pochissimo e appunto, ripeto, fino al 2 settembre sarà visibile a Palazzo Reale a Milano, siamo quindi in pieno centro, gratuitamente appunto. Un po' il percorso come si sviluppa? Ma il percorso abbiamo cominciato per esempio mostrando inizialmente le sculture, queste grandi scalinate fatte da Gianni Colombo, un artista più al limite del design, che sì. Non volevamo cominciare con un tono marcatamente politico, volevamo cominciare col tono quello più astratto, sono queste scale bellissime nere di Gianni Colombo, che lui, tutte un po' storte, sì, difficili da salire, che però lui si riferiva anche alla filosofia zen, la vita che è questa scala in salita e in discesa, a volte appunto non sempre diritta e non sempre sicura. Direi quasi mai. Comunque, non è quasi sì. mai. E quegli anni erano sicuramente così. La scala di quegli anni, degli anni 70, non era sicuramente una scala facile da percorrere né in salita né in discesa. E poi c'era la sala di Nanni Malestrini, scrittore, artista, che ha raccolto tutte le pubblicazioni di quegli anni e anche un suo quadro. Poi dopo si passa a un'altra sala dove c'è Alic Cavalieri, che è un artista molto più formale, quasi sconosciuto, meno politico degli altri, e quindi la mostra va avanti, diciamo, un po' in questo forme di dialogo, cioè ci sono sale molto politiche e sale molto più esteticamente formali, e quindi si capisce che come in quegli anni ci fossero a Milano ci fossero questi due binari paralleli, il binario dell'azione dell'arte politica, chiamiamolo il binario ideologico e quello invece esclusivamente artistico, il dialogo dell'arte impegnata e l'arte disimpegnata. Grazie Francesco Bonami, io verrò sicuramente a vedere la mostra, ma penso anche ai nostri ascoltatori, visto i tanti messaggi che arrivano, vuol dire che insomma c'è ancora voglia di recuperare e appunto, come dicevi tu, incasellare quegli anni e cercare di capirli magari con una visione anche nuova, perché poi il tempo passa per tutti. Grazie ancora Francesco, buona domenica. Grazie mille, buona giornata. Ricordo a Milano fino appunto al 2 settembre, Milano anni 70, continuiamo a parlarne tra poco con un altro ospite, ma intanto volevo leggere qualcuno dei vostri messaggi. I miei alunni ascoltano Battisti, aggiungere altro, chiede Andrea, insomma, come dire, gli anni 70 che ritornano. Claudia scrive: la mia prima volta a Londra nel 71, a 5 anni, ricordi vivissimi di un altro mondo, e lo era, perché poi non essendoci internet, l'altro mondo era veramente l'altro mondo. Si compravano, si andavano a Londra a comprare delle cose che mai si sarebbe potuto trovare in Italia, e invece oggi chiaramente tutto molto diverso. Ricordo l'occupazione per mesi a Montalto di Castro e la manifestazione di 500.000 persone con Dario Fo in prima fila, vedremo di parlare anche di queste manifestazioni. E poi chi ringrazia per Aquarius, perché è un tuffo nel passato, sicuramente lo è. Anni 70, la febbre del sabato sera e Messner sull'Everest senza l'O, Piazza Fontana e il Vietnam, tante cose, forse troppe. Il rock progressivo, scrive Giampiero, parleremo, credo, spero, anche di quello con un ospite che cerchiamo di rintracciare oggi, che purtroppo non è a Milano in questo momento, anche se vive qui, forse avete anche capito di chi sto parlando. Daniele Magni, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Allora, Daniele Magni con il suo socio ha un negozio a Milano, ne abbiamo già parlato, si chiama Blockbuster, e è un negozio che propone cinema di genere e ha appena pubblicato insieme a Silvio Giobbio un dizionario, lo chiamo così, è un dizionario, però è piacevolissimo da leggere anche al di là dell'essere dizionario, lo si legge quasi come un saggio. Cinici, infami e violenti. Io volevo cominciare proprio da questo, perché parliamo dai film polizieschi degli anni 70, no? Italiani. E secondo te davvero, siccome arriviamo da Aquarius, no? dal 68 in poi, quindi giorni di pace, amore e musica, queste erano un po' le tre parole, è vero che poi si è passati a un vortice di violenza, cinismo e droga? Sì, assolutamente. Devo dire che la differenza tra il decennio dei 60 e 70 è veramente come il giorno e la notte. Tra l'altro noi abbiamo appena pubblicato un libro sui Musicarelli. Sì, degli anni 60, certo. Esatto, per cui io ho proprio visto la differenza tra quel tipo di cinema lì, molto solare, molto ottimista, molto basato sul volevo se bene, al poi il cinema degli anni 70, dove veramente si sente la cupezza degli anni di piombo. E ti dirò che anche negli ultimi esempi di Musicarelli, che sono quelli fine 60, già qualcosa va anche nel 71, ecco, lì già vedi che magari la storia non si basa più sull'amore tra i due protagonisti, ma cominciano a entrare altre tematiche un po' più serie e, ahimè, un po' meno divertenti. Allora, io vorrei cominciare, proprio in base a quello che hai appena detto, a far ascoltare un pezzettino di uno dei film del 1972 dei quali parleremo oggi. Si intitola La polizia ringrazia. I miei uomini non si sentono più di sparare. Ogni volta che hanno la disgrazia di colpire un delinquente, scoppia subito una grana e i primi a farla scoppiare siete proprio voi giornalisti. Ma quelli erano due rapinatori assassini. Nessuno avrebbe trovato da ridire. Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai. O quando buttate gli anarchici dalla finestra. Sul caso Pinelli c'è un procedimento in corso e se qualcuno deve pagare, pagherà. Figurati. Ricordatevi piuttosto del caso del bandito Cinino. Evidentemente non si trattava né di uno studente né di un operaio. Eppure poco ci è mancato che aprissero un'inchiesta sul capitano Valente, perché aveva sparato al poverino. Dottor Bertone, parliamoci chiaro. In città la gente è terrorizzata, non si sente protetta. Riceviamo valanghe di lettere di protesta che ci domandano che fa la polizia per difenderci da questa delinquenza scatenata. La gente non si sente protetta dalla polizia. È vero, lo so. Ma neanche noi ci sentiamo protetti da chi ci dovrebbe coprire le spalle. Ce l'abbiamo tutti contro con il fucile spianato, tutti! Giudici, giornali, partiti. A volte sembra che i delinquenti siamo noi. Ecco, io credo che da questo spezzone si capisca onestamente tutto il film, Daniele. Sì, assolutamente, e si capisce una cosa secondo me molto importante di quel tipo di cinema, che essendo un cinema girato, come dire, sul pezzo, c'era diciamo cavalcava il malumore popolare ed era cinema che veniva girato con pochi soldi in mezzo alla gente, appunto giorno per giorno, per cui molto più del cinema di serie A. Nel cinema di serie B riusciamo a vedere com'era la società veramente a quei tempi, e la cosa della gente che non si sente sicura, che non esce di casa la sera, sì. Appunto il terrorismo eccetera eccetera, è un argomento di primo piano in questi film. Ecco, poi vorrei capire perché insomma qui c'è una parte di denuncia e una parte invece semplicemente di poliziesco, no? Cioè un po' l'insieme delle due cose, per quello sono partito da questo punto. Prima di dare la pubblicità, poi continuiamo a parlare e mi darai la tua risposta, vorrei capire quanto si voleva fare, quanta ideologia c'era dietro la costruzione di questi film, oppure quanto semplicemente c'era la volontà di fare cassetta, ecco, francamente, quindi di vendere biglietti e far portare le persone al cinema. Il riposo del guerriero. Con Daniele Magni stiamo parlando dei film polizieschi italiani degli anni 70 e Daniele, allora ti stavo chiedendo quanta ideologia ci fosse in quei film, quanta voglia di fare politica, perché abbiamo sentito appunto in questo pezzetto della polizia ringrazia comunque anche una citazione al caso Pinelli e capire appunto quanto si prendeva spunto dalla realtà anche dei fatti semplicemente per fare cassetta oppure no, oppure erano un modo per raccontare delle cose anche politiche, per esprimere anche delle opinioni politiche. Sì, allora sicuramente intanto bisogna dire come premessa che il decennio dei 70 è stato l'ultimo in cui, diciamo, la cinematografia italiana era una vera e propria industria e c'erano maestranze che si spostavano velocemente da un film all'altro e uscivano centinaia e centinaia di film all'anno, una cosa che oggi è improponibile. Ecco, quindi la principale motivazione di questo genere di film è sicuramente di fare cassetta, perché questi film costavano poco, erano venduti in tutto il mondo e permettevano poi di sovvenzionare i grandi film di vari film, eccetera, eccetera. Quindi sono film girati velocemente sulle notizie del momento, senza grosse pretese. In realtà poi, come tutte le cose che nascono così, il vero valore di questi film deve essere visto dopo, perché come dicevo prima fotografano assolutamente la società dell'epoca. E la cosa interessante riguardo alle ideologie è che per moltissimo tempo sono stati tacciati di ideologie, di propaganda, di ideologie reazionarie o comunque di destra. In realtà gran parte degli autori erano poi assolutamente di sinistra. Penso a Luciano Martino, che ha fatto Milano Trema, o Umberto Lenzi, e tutta gente che era ben lontana dall'essere di destra. E niente, diciamo che appunto la cosa principale era fare spettacolo. Certo, quindi insomma, si partiva anche, da lì. Si dava anche voce al malumore che c'era. Perché il pubblico probabilmente cercava anche quello, poi in particolare in quegli anni. E poi c'è tutta una scia di film che inizia con Milano. Ecco, Milano è il centro ancora una volta, no? di tutti questi anni 70. Io vorrei cominciare da quello che tu definisci forse il noir per eccellenza, che è Milano calibro 9. Sì. Sai che mi ha detto l'americano? Che hai esagerato e vuole delle scuse. Non voglio avere niente a che fare con lui, nemmeno per delle scuse. Una volta lo stimavo, adesso te l'ho detto. Fa troppo chiasso. Se continua così vedrai che fanno un'antimafia pure per Milano. Un'antimafia per Milano? E che c'entra? Niente. Perché credi che in altre parti c'entri? La chiamano mafia. Ma oggi sono bande. Bande in lotta e concorrenza fra di loro. La vera mafia non esiste più. Quando quelli della droga vogliono investire i loro guadagni, costruiscono palazzi. E quelli dell'edilizia sparano. Che c'entra la mafia? La vera mafia è morta. A un certo punto di vista mi sembra molto attuale, che sono passati 40 anni, Daniele. Assolutamente sì, devo dire che tra tutti, diciamo appunto, noi nel negozio trattiamo un cinema di genere e devo dire che il genere che più è attuale, che meglio è invecchiato, sia dal punto di vista formale, estetico, sia dal punto di vista dei contenuti, è quello del poliziesco, perché effettivamente ascoltare certi dialoghi dei polizieschi di allora, niente, sono, cioè, potrebbero essere stati scritti oggi. Ecco, senti, tu, c'è un altro dei film che comincia sempre con Milano, particolarmente violento, che reputo un film molto molto interessante, anche perché era nato esclusivamente appunto per fare cassetta, perché la gente andasse a vederlo. E mi domando perché il pubblico così apprezzasse così tanto proprio la violenza, anche se vogliamo un po' gratuita. Sto parlando di Milano odia, la polizia non può sparare. Preparati, Sacchi, per te è finita. Come è finita? Ma io non ho fatto niente. Ti condanno a morte per rapimento, violenza e strage. Ma senta, guardi... Commissario, un momento! Fermati! Ma cosa fa? La polizia non può sparare! Fermati! La polizia non può sparare, commissario! Guardi che non ci sono prove! Non ci sono prove su di me, commissario! È matto! Fermatelo! È matto! Ecco, Ernesto Gastaldi, che firma soggetto e sceneggiatura di questo film, dice, l'hai sentito nei contenuti del DVD, non è che quando si scriveva questi film si pensasse a far filosofia, si trattava solo di storie costruite per un pubblico che ne fosse sufficientemente intrigato per 100 minuti. Andava al poliziesco, quindi si faceva il poliziesco. E in questa sorta di arancia meccanica, se vogliamo, tutta italiana e di serie B, come si definisce, Daniele, è stato davvero un successo, ancora oggi lo si guarda volentieri. Beh, il film è un pugno nello stomaco ancora oggi, devo dire. E per quanto riguarda la violenza, lo spettatore cinematografico è un po' per eccellenza il voyeur da tutti i punti di vista e predilige le emozioni forti. Basta vedere la deriva attuale dell'horror che va nel torture porn, appunto, con serie come Hostels, eccetera. Ecco, senti, poi... sì, scusami. Sì. No, vai avanti, perdonami. No, mi stavo anche un po' perdendo, quindi... Ah, ok, quindi ti interrompo. Poi, senti, volevo, solo per chiudere, visto che voi vi occupate proprio di quel tipo di cinema, e in particolare anche di quegli anni 70 e 80, e anche 60, appunto, visto che sta uscendo il film, il libro su Musicarelli, È già uscito, scusami, ecco, tutta quella serie invece dei film dove c'era il nudo, quei film che raccontavano delle storie ma dove c'era anche un po' di erotico, no? Che in quegli anni cominciò ad avere grande successo. E ce n'è uno fra tutti, uno che tu consiglieresti di vedere per capire come fosse il cinema di quegli anni in quel senso? Un film con molto contenuto di erotismo? Sì, se vuoi, perché era un... Non lo so, mi stai chiedendo già qualcosa sull'hard, perché se no ti dico... No, assolutamente non hard, perché era quegli anni, no? In cui da una parte c'erano i polizieschi violenti, abbiamo visto, ne abbiamo parlato. Certo. Dall'altro c'erano anche film che raccontavano delle storie di passione, dove però l'elemento erotismo era molto presente, no? Più di oggi, perché c'erano delle scene che oggi sarebbero quasi considerate hard in un certo senso, no? Di film che apparentemente non dovevano avere niente di questo, però avevano anche contenuto da questo punto di vista, e quindi di questo ti chiedevo, anche perché arrivo da un messaggio che è arrivato con sms, mi ricordo gli anni 70, Cicciolina al teatrino in Corsia dei Servi, che era un teatro molto famoso dove così sono nate anche molte porno star, ma al di là di quello del porno non stiamo parlando, ma proprio dell'erotismo nei film, no? Era molto presente, e quindi ti chiedevo quale fosse il titolo che in più potesse rappresentare un po' quegli anni. Tu hai citato Gola Profonda. Perché avevo equivocato la domanda. No, in realtà qualsiasi film considerato appunto di commerciale o di serie B aveva un po' una grande valenza erotica, anche nel, comunque, sempre per il discorso del voyeurismo che facevamo prima, violenza e sesso. Ecco, quindi le due, la chiave dell'essere voyeur erano quelle due, insomma, violenza e sesso, di conseguenza sì, il cinema, cioè, diciamo che quella, c'è anche una famosa serie di videocassette allora curata da Notturno che si intitola proprio Sex and Violence, perché quelli sono i due elementi del cinema exploitation. Ecco, quindi li ha entrambi. Quindi, se volete saperne di più, beh, potete andare da Blockbuster in via Panfilo Castaldi a Milano, e poi appunto è uscito questo dizionario scritto da Cinici, Infami e Violenti, dizionario dei film polizieschi italiani degli anni 70. Grazie Daniele, ciao, buona domenica. Grazie a te, buona domenica. Ciao. Allora, tutta la mia vita negli anni 70, un viaggio a Berlino, poi ho incontrato l'amore della mia vita, mi sono sposata, ho avuto due figli, insomma, tutto. Degli anni 70 ricordo l'incubo di migliaia di squadristi armati di spranghe che davano l'assalto alla democrazia nelle aggressioni 1000 contro 1. L'unica differenza rispetto alla nascita del fascismo era nel colore delle bandiere degli squadristi. Poi ancora oggi ascolto e guardo volentieri il CD o il DVD di Jesus Christ Superstar, autentica icona di quegli anni. In qualche modo lo è sicuramente, non a caso io ho voluto iniziare con Hair, ma avrei potuto iniziare anche con Jesus Christ Superstar. Dai 6 ai 16 anni, gli anni 70 per me, ho respirato il clima del terrorismo a Torino con la speranza che lo avrebbero sconfitto. Lo sciopero di noi studenti per solidarietà con i metalmeccanici, me ne ricordo molti anch'io. La disco music, la moda che te la raccomando, e di quello parleremo anche oggi, della moda degli anni 70 che un po' ci portiamo ancora dietro. E comunque, bei tempi, questa per concludere il messaggio di Silvia. Se volete continuare a scrivere, 349-238-6666, cosa ricordate degli anni 70, cosa vi è rimasto di quegli anni e come ve li immaginate nel caso invece non l'abbiate minimamente vissuti, e gli aggiornamenti sul traffico, e poi continuiamo a parlarne. Il riposo del guerriero. Parliamo di cinema e di teatro negli anni 70. Enrico Groppali, ciao, buona domenica. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Allora, anni 70, anni pieni di ideologia, teatro e cinema, ne abbiamo appena parlato appunto di cinema, di cosa funzionava nelle sale e cosa succedeva invece intorno a noi, anche per quanto riguarda il teatro, per esempio, Enrico. Sono anni di grande consolidamento proprio delle, diciamo, delle avanguardie, ma non parliamo soltanto delle avanguardie in senso stretto, cioè della scuola romana, ecco, quello per esempio è stato un grande movimento. Abbiamo per esempio la grande valorizzazione di una coppia, Giancarlo Nanni, che purtroppo non è più tra noi, e Emanuela Kusterman, che cominciano con A come Alice, tratto naturalmente da Lewis Carroll, ma in un'atmosfera che dalla favola passa addirittura al musical da camera, e soprattutto con la valorizzazione di un grande autore, fine 800, primi 900, come Wedekind, di cui nessuno in Italia aveva mai sentito parlare, sui palcoscenici, con Risveglio di primavera, che è uno spettacolo proprio boom di quegli anni. La Kusterman viene lanciata addirittura come Duserman, la piccola Duse, qualcuno la battezza, della piccola grande Roma. Ma si consolida per esempio anche il mito di Ronconi, e si considerano, cominciano ad apparire anche le prime regie di Castri e le prime grandi regie di Cobelli. Trionfo, per esempio, Aldo Trionfo, non è un aggettivo, sì, a questo punto, con Arden di Feversham, che è un grande spettacolo tratto da un elisabetiano che soltanto gli specialisti conoscono, anzi di un ignoto elisabetiano, spopola le platee e nasce anche il mito di un'attrice controcorrente come Piera degli Esposti. Contemporaneamente abbiamo anche Missy Roli, che sale alla ribalta del Teatro Stabile di Torino. Ma tutto questo naturalmente non possiamo non accostarlo anche al cinema di allora. Pensiamo, non so, che Pasolini, appena reduce dalla lavorazione di Medea, dove esordisce nel cinema, purtroppo è stata la sua unica apparizione, Maria Callas, comincia con il Decamerone. Sono anni praticamente in cui la valorizzazione dell'erotismo, di cui si parlava prima, assume per esempio in Inghilterra una vernice estremamente soft e sofisticata. Esordisce per esempio Twiggy nel famoso Boyfriend di Ken Russell, e si parlava di Air, ma abbiamo, sì, anche il Cabaret per esempio di Bob Fosse, tratto dal famoso racconto Addio a Berlino di Christopher Isherwood, che stabilisce su base internazionale il mito di Liza Minnelli. Abbiamo Taxi Driver e abbiamo addirittura il cinema nel cinema, non solo il teatro nel teatro, con Effetto Notte di Truffaut, dove una grande Valentina Cortese vince il premio dei critici di New York e quasi quasi sfiora l'Oscar come migliore attrice non protagonista, che le viene soffiato all'ultimo minuto dalla coetanea Ingrid Bergman, che si scusa pubblicamente dopo aver ricevuto per la terza volta la fatidica statuetta, dicendola: lo meritavi tu, scusami Valentina, una cosa che non si era mai vista. Ma soprattutto, insieme a questo rigurgito del romanticismo e dell'erotismo, non dimentichiamo l'horror, perché Dario Argento con Profondo Rosso e La casa dalle finestre che ridono, che è del 76, di Pupi Avati, dove a un certo punto la provincia italiana più fonda, quella dell'Emilia Romagna, che in genere è sempre collegata anche nei nostri sogni a un aspetto se non ridanciano, pacioso, sì, a un aspetto positivo, eccetera, svela delle profonde contraddizioni di fondo, e addirittura sotto il manto della Chiesa cominciano a perpetrare i più atroci delitti. E contemporaneamente però non possiamo non dimenticare proprio al primo posto il caso di Bertolucci con Ultimo Tango a Parigi, seguito poi qualche anno dopo da Novecento, in cui il grande cineasta emiliano, parmigiano, vuole fare i conti addirittura con il secolo, con il 45, con gli anni 30 o così, ponendo proprio la parola fine e insieme a un nuovo inizio. Quindi siamo praticamente in un'accensione proprio totale di talenti. Abbiamo Apocalypse Now di Coppola, abbiamo l'America che con Il Padrino e soprattutto con Il Cacciatore di Simino fa un'autoaccusa tremenda proprio su se stessa e sul mito della guerra, mentre invece la Francia, stranamente, ho appena ricordato a Effetto Notte, si rifugia in una stilizzazione del proprio pensiero e, diciamo così, in una raffinatezza antiquaria con il mito, sia pure per pochi, di Eric Rohmer. Nasce Perceval et le Gallois sul mito di Parsifal, che da noi si intitola addirittura il fuorilegge per esigenze commerciali. Sì, certo. E la Marchesa Fonò, addirittura, tratta da un meraviglioso racconto di Kleist, dove la protagonista viene sedotta contro la sua volontà durante il sonno, e il sonno proprio che assume proprio una valenza quasi edipica, perché durante il sonno non solo che si consuma la seduzione della marchesa, ma il sonno della ragione, che non genera mostri, ma in questo caso apre proprio lo spiraglio a una nuova affettività. E vengono anche valorizzati in questo film anche gli attori di teatro, perché non è un caso che Rohmer scelga non solo due attori stranieri, due attori tedeschi, ma due grandi attori della scena contemporanea di allora, Bruno Ganz e Edith Klever. C'è la riscossa di Fellini con Amarcord, dove vengono consumati, sempre a livello di Emilia Romagna, il meraviglioso proprio della propria infanzia, e si chiude un capitolo straordinario anche della giovinezza del cineasta. E sono praticamente anni in cui si sperimenta di tutto, si pone fine a tutto, e insieme però il costume, sono gli anni in cui anche a livello di moda Armani e Versace celebrano proprio il loro massimo successo. Ecco, E il romanticismo trionfa anche in libreria con la Love Story di Seagal, da cui viene tratto poi un film, e soprattutto con un bellissimo libro che ancora oggi è attualissimo, anche se i protagonisti sono morti, il protagonista Panagoulis e anche la scrittrice Oriana Fallaci, che rievocando proprio il grande amore della sua vita pone proprio la parola fine a quella che era il secolo della contestazione, del cambio di governo, addirittura di una marcia in più che doveva assumere la politica internazionale in Europa e in America, però attraverso un resoconto privato di una grande storia d'amore. Quindi abbiamo un'infinità di fuochi, di fuocherelli che continuano ad aprirsi e che non significano a un certo punto un'esuberanza per eccesso, ma semmai un tentativo di spiegare tutto quello che c'era stato nel dopoguerra e che ritroveremo negli anni 80. Forse gli anni 80 non sono stati così creativi come gli anni 70, dove prima si ricordava Jesus Christ Superstar, però Jim Sherman comincia anche con Rocky Horror Picture Show. Enrico, io ti fermo qui, ti ringrazio per questo escurso che ha toccato un po' tutti, e devi solo dirmi sì o no, ma basta, perché abbiamo 30 secondi. Va ho bene. Cominciato con questa domanda: addio anni 70, sì o no? No, perché gli anni 70 sono ancora dentro di noi e continuano immancabilmente a proliferare. Grazie. Quindi, anche con gli SMS si capisce questa risposta dai nostri ascoltatori. Grazie, Enrico Groppari, settimana prossima, buona domenica. Ciao a voi e grazie di tutto. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Addio anni 70, appunto, di questo stiamo parlando, partendo da una mostra che è appena iniziata a Milano a Palazzo Reale. Ne continuiamo a parlare dopo il GR. Il riposo del guerriero. Sono le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Oggi siamo partiti da questa mostra a Milano da qualche giorno fino al 2 settembre, addio anni 70, dove in mostra appunto ci sono fotografie, arte figurativa in generale e sculture relative proprio nate proprio in quegli anni e in particolare a Milano. Abbiamo detto che è un po' una mostra a chilometro zero, ingresso gratuito, dicevo, fino al 2 settembre. Siamo partiti lì per raccontare questi anni 70 anche da chi li ha vissuti e da chi invece in qualche modo li ha semplicemente analizzati, e ho chiesto anche a voi ascoltatori se questi anni 70 sono finiti davvero, addio o meno. E qualcuno cita altri film dei quali non abbiamo parlato prima, Enrico Groppali ne ha citati diversi, io aggiungo Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto di Nelio Peti, che è datato 1970, o ancora sempre con Gian Maria Volonté, Sacco e Vanzetti del 71, e poi forse un film per eccellenza perché racconta proprio la storia degli studenti che si ribellano per tante ragioni al consumismo, e sto parlando di Zabriskie Point, il film del 70 diretto da Michelangelo Antonioni. E poi i vostri messaggi, tanti, sì, c'ero, ero proprio in prima fila in quel teatro a Londra dove splendidi e bravissimi giovani cantavano e ballavano le indimenticabili musiche di Hair. Ci sono stata per due sere consecutive, poi alla fine dello spettacolo ero sul palco a ballare con loro, perché si faceva anche quello come in Rocky Horror Picture Show. Ancora nel 72 mi sono innamorata di Gualtiero, del grande Lucio Battisti, cantava il mio canto libero, e ancora quindi Margot è rimasta con quella canzone in testa, forse con il testo. Ricordo La speranza che animava anche quelli che solitamente erano distaccati, insomma la speranza che qualcosa potesse davvero cambiare. Giampiero invece scrive la colonna sonora degli Osanna, il progressive napoletano. In effetti il progressive era la musica del quale avremmo anche dovuto parlare, non so se ci riusciremo perché il nostro ospite continua a non risponderci. O ancora ricordo con grande piacere la serie UFO, era fantastica. È vero, Groppali diceva che un po' si sperimentava di tutto in quegli anni di grande coinvolgimento politico dei giovani, di grandi battaglie, divorzio, aborto e poi alto gradimento, scrive Patrizia, insomma la radio per eccellenza. Nato nel 60, credo ci sia una grande differenza fra la prima e la seconda metà del decennio. Quale secondo voi lo spartiacque? Questa è una domanda che un ascoltatore fa. Non dimenticare Dario Fo, mi scrive Silvia. Ancora, gli anni 70, pur tra luci e ombre, hanno rappresentato un periodo di grande fermento e creatività in tutti i campi. Penso soprattutto al progressive rock che amo da sempre, ineguagliato negli anni seguenti. Quindi rispondo no, agli anni 70 ancora niente addio. Io vi ricordo il numero verde perché alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24. E visto che avete parlato di musica, ancora una volta faccio sentire un pezzetto di questa canzone che in qualche modo rappresenta proprio quegli anni. Dolce ma forte, e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque va. È la musica, musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Non riusciamo a trovare il nostro ospite che è Eugenio Finardi, insomma protagonista di quegli anni, perché avrei voluto sentire da lui l'atmosfera che si respirava in quelli che erano appunto i festival di Renudo. Renudo è stata una delle principali, ancora delle principali riviste italiane dedicate alla controcultura, alla controinformazione. È stata fondata a Milano nel tardo 70 e Renudo poi aveva organizzato dei festival del proletariato giovanile, in particolare proprio al Parco Lambro a Milano, e uno dei protagonisti era stato proprio Eugenio Finardi. Si ascoltava la musica, si dibatteva, si discuteva, si stava nudi tutto il giorno e per giorni, una sorta di piccola Woodstock, diciamo così, in Italia a Milano. Tra l'altro l'ultima edizione ha avuto qualche problema, però è stata veramente frequentatissima, ha avuto grandissimo successo. Ma ci spostiamo dalla musica per parlare di design, non soltanto. Ettore Mocchetti, grazie, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Ettore Mocchetti, direttore di AD, perché insomma in quegli anni si sperimentava tantissimo, quindi architettura e design cominciavano a far discutere nel vero senso della parola, perché sì, c'erano delle creazioni che proprio non si potevano capire, forse neanche vedere. Da dove partiamo Ettore? Partiamo che vabbè, sono stati anni di innovazione, di immaginazione, di creatività, ma gli anni 70 viaggiano sempre su un dualismo, Sì. Nel senso che noi arrivavamo dagli anni 60 che sono stati quelli che hanno portato gli psichedelici, il rock, la pop art, e sono entrati a far parte del quotidiano qui in Italia negli anni 70, no? Quindi c'era un gran vento di libertà, l'hai detto tu prima, no? Che spazzava la vita nelle grandi città, si estendeva in provincia, e quindi anche questo si riverbera nel design, e quindi il design che ha avuto sempre un alveo straordinario, il bel design italiano, no? Di cui abbiamo avuto i grandi, grandissimi negli anni 60, quello che coniugava la funzionalità e la praticità, cioè, intrinsecamente bella, e che aveva una corrente validissima negli anni 70, perché noi dobbiamo pensare che erano in grande attività i vari Magistretti, Mangiarotti, Mari, Zanuso, i fratelli Castiglione, Scarpa e lo stesso Gio Ponti ancora, quindi facevano delle cose straordinarie, producevano proprio all'inizio degli anni 70, durante gli anni 70, dei pezzi iconici da utilizzare, e lì erano in grande attività le aziende storiche italiane, la forza del design italiano, le aziende da Cassina a Busnelli, erano laboratori di idee. D'altra parte, questa prima corrente dà una sua vitalità. Se noi pensiamo che per la neonata Flun, un grande marchio, Magistretti disegna il letto Natalì, validissimo oggi ancora, e la sedia Plia di Piretti fatta per Anonima Castelli, che è una scommessa vinta, un best seller inarrivabile nel mondo, oppure anche, sai, sul disegno industriale vero e proprio, Bellini, la calcolatrice Logos, quando Olivetti era un'azienda straordinaria in tutto il mondo, e poi non so, i fratelli Castiglioni, la parentesi fatta assieme a Manzù, nei divani, l'utilizzo degli espansi in modo straordinario, le famose bambole di Bellini, che se ti ricordi erano state straordinariamente pubblicizzate con quelle foto di Oliviero Toscani, la modella nuda sul divano, no? E questa era una corrente fondamentale degli anni 70, ma l'altra linea di tendenza era quella che, come si è detto, puntava a una critica più o meno radicale di questo bel design, no? Quindi ha cominciato a rinnovare, a cambiare tutto, un ricorso a fantasia sfrenata, non so, al recupero anche ironico del passato. Direi che erano chiamati selvaggi questi, cioè abbiamo il Superstudio che aveva aperto la strada, e poi gli Archizoom aveva aperto la strada, tutte queste nuove realtà di giovani designer creavano delle cose straordinarie, che erano però state già anticipate, voglio dire, avevamo avuto la poltrona Sacco, che non aveva niente a che fare, non è presente quella poltrona, sì, che Fantozzi utilizza, era, no? Sì, era un sacco pieno di palline di polistirolo, ma penso, esatto, che venga prodotta anche oggi, anzi sono sicuro che venga prodotta. Ma Gaetano Pescia, tuttora in attività, che è un grandissimo artista, ha prodotto per la B&B delle cose straordinarie, voglio dire, queste sedute app, che erano delle sedute in espanso molto grandi, come delle palle, no? Delle insiemi, cioè delle cose veramente di rottura, no? Sul design attuale che c'era stato, cioè sul design che c'era stato sino a quel momento. Quindi gli oggetti diventano colorati, si vedono, diventano un po' giocosi, sono anche distorti, no? Perché a volte si va a cercare questo disegno un po' organicistico. Poi è interessante perché è il colore soprattutto che entra nella decorazione, negli interni, nelle mostre che abbiamo anche fatto recentemente, gli interni degli anni 70, si fondono delle nuove discipline come la progettazione della luce, che era stata sempre trascurata, e non so, poi si afferma questa voglia di spiazzare, di stupire, come è stato per il cinema evidentemente, ecco, e per le altre arti. Ecco, no? Ti fermo un attimo, sì, ragionamenti sul traffico, e poi ti faccio una domanda proprio su quegli anni e sull'ideologia, cioè se anche per quanto riguarda il design c'era dell'ideologia, almeno per qualcuno, oppure almeno il design si è salvato da questo. Il riposo del guerriero. Con Ettore Mocchetti, direttore di AD, stiamo parlando del design degli anni 70, visto che questo è l'argomento. Ettore, ti chiedevo se c'erano anche delle valenze ideologiche oppure se il design si è un po' salvato da questa contaminazione. Ecco. Prima ti ho accennato ai selvaggi, sì, no, tra virgolette, sì. Ma è chiaro che lì si prendeva l'utopia marxista, se vogliono creare in terra l'utopia marxista mediante l'architettura e il design. Cioè, è in questo senso che ci sono queste visioni anarco-futuriste del superstudio, no? Di UFO, di tutti questi studi sulla scia degli archi zoom. Però dopo poi si va avanti, no? E si arriva, voglio dire, a Mendini, Sozzas, ad Alchimie Memphis, anche che con i loro ragazzi, erano tutti giovani, lavorano in questo studio, ha rappresentato forse l'ultimo tentativo di questi ribelli di restare ribelli, ma a ben guardare anche loro, è un gioco, le loro proposte in tutto sommato servono a reindirizzare il mercato e non ad annichilirlo, no? E quindi vogliono rivitalizzare un comparto industriale e non lo vogliono scardinare, quindi la parabola si è conclusa poi negli anni 70, no? Ecco. E contribuiscono questi, alla rinascita del Made in Italy, e questo è importantissimo, perché tutta questa grande fervore di innovazione, immaginazione e creatività ha poi portato a quello che è oggi, insomma, l'Italian Style, il Made in Italy. Ecco, quindi anche per te addio anni 70, come tu domanda dici di no, nessun addio, perché è grazie a là che siamo qua, cioè, assolutamente, almeno come design italiano. Ma guarda, straordinario, anzi lì sono le radici di tante cose, anche prima, ma quelli sono stati anni straordinari, no? Che abbiamo vissuto tutti in un modo fantastico. Grazie Ettore Mocchetti, buona domenica, ciao, grazie, domenica. Grazie. Qualcuno tra gli ascoltatori dice quasi quasi ricomincio a dire cioè ogni 5 secondi, perché era un intercalare, diciamo, tipico, non c'era soltanto cioè, ce n'era anche un altro. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Non ti hanno spento le linee, che sapete, domenica scorsa Francesco ha avuto qualche problema perché hanno tolto le linee cellulari per varie questioni nella sua zona, non avevamo modo di contattarla. È vero, questa volta per evitare problemi analoghi mi sono chiusa in macchina sul ciglio della strada. Infatti perché... sento i grilli anche in mezzo al bosco. Allora Francesca, anni 70, che sì. Cosa ti ha fatto pensare? Allora, mentre riflettevo mi sono resa conto che si veniva a creare una sorta di catena, un gioco delle ciliegie dove una parola ne tirava un'altra, e così alla fine mi sono decisa per una soluzione un po' innovativa per questa mattina. Ho creato da subito il post di Tuttopoli, l'ho intitolato 70x70, gli anni 70 in 70 parole, e ho chiesto la collaborazione dei tuoi ascoltatori, che stanno rispondendo, per cui alle parole che avevo già pubblicato nel corso ieri sera, insomma, si sono aggiunte quelle che mi sono state suggerite dall'inizio della trasmissione in poi via Facebook o direttamente commentando Tuttopoli. Quindi il post di oggi e l'intervento che lo precederà sarà sintetico e soprattutto partecipativo. Mi sono riservata, visto il tempo, di approfondire soltanto due o tre parole, una delle quali inaspettatamente divertente, ed è la parola divorzio, perché la parola divorzio è una parola che ha la stessa radice di divertere, che è la radice appunto del divertimento. Però ora ci arrivo. Divorzio, innanzitutto, non è una parola moderna, non è una parola del Novecento, la troviamo attestata già nel XIV secolo, pensate già con il significato con cui la utilizziamo oggi. In italiano si tratta di un prestito dal francese, adattato in italiano prima in divorzare e poi successivamente in divorziare con la i, proprio per analogia sulla parola divorzio, sul sostantivo che ha preceduto il verbo. In Italia, appunto, come dicevo, si trova attestato dal XIV secolo, mentre per il verbo bisognerà aspettare altri tre secoli. Sono moderni l'aggettivo e sostantivo divorziato per riferirsi a chi, appunto, è ricorso al divorzio per interrompere un'unione matrimoniale. Modernissimo invece il termine divorzismo e divorzista, quindi per indicare l'atteggiamento di chi è divorzista e il fatto di esserlo, quindi i fautori del divorzio. Una curiosità, nei dizionari, nel cosiddetto dizionario moderno di inizio Novecento del Panzini, la parola divorzio veniva inserita, però veniva commentata come parola dalla vita effimera, perché l'autore riteneva che nel giro di poco tempo sì sarebbe stata espunta. E immaginiamo che poi Panzini era uno attentissimo alle innovazioni, quindi veniva chiamato non solo era intitolato ma veniva anche riconosciuto come dizionario moderno proprio per l'attenzione che veniva prestata nella compilazione alla lingua dell'uso. E pensate appunto che in una delle edizioni successive, siamo intorno al 27, questo commento sparisce, quindi il Panzini si arrende al fatto che non si trattava sicuramente di vita effimera. Però appunto è l'etimologia più remota quella che è interessante, perché come dicevo la radice è la stessa di diverto, che poi noi conosciamo anche nella forma riflessiva, mi diverto, divertire, divertirsi. Dov'è il legame di significato? Diciamo innanzitutto che quella radice vert, vort, ha a che fare con l'allontanamento, per cui così come il divorzio tra due persone è l'allontanamento rispetto a un percorso che le due persone hanno condiviso, nel caso del divertimento c'è l'allontanamento dalle preoccupazioni, quindi l'idea originaria è rimasta, però appunto nel caso di divertimento c'è stata una specializzazione in senso più metaforico. La stessa radice, verse, immaginate che si tratta grosso modo della stessa, è la stessa radice, per ragioni linguistiche che poi la possiamo trovare con t o con s, è quella che abbiamo in italiano diverso. Il diverso, no? Qualcuno che non appare simile agli altri, perché? Perché il diverso è colui che procede, che è volto, quindi che va verso un'altra direzione, è differente per questo. La parola diverso, così come l'astratto, diversità, sono attestati già tra il 200 e il 300, quindi comunque si tratta di parole molto antiche. Devo dire che in questa lista, in questa collana di ciliegie, in cui appunto al primo posto ho messo divorzio per le ragioni, esatto, e che poi è seguito da referendum, Watergate, Walkman, da 21 a 18 per indicare la maggiore età, Carosello perché è la fine di Carosello, trasmissioni a colori, Goldrake, anche se io preferivo Gigrobo d'acciaio, anni di piombo, crisi economica, crisi energetica, eccetera eccetera, ne mancano ancora una ventina, per cui chi volesse contribuire fa ancora in tempo a farlo. Sì, siamo a 47 le parole che sono In realtà sono 53 perché non ho fatto in tempo a fare l'ultimo aggiornamento. Okay, va bene, sì. La cosa che mi ha colpito, quindi se c'è una costante che sfugge a chi non abbia dimestichezza con tutti quei repertori che ci danno anche indicazione sulle prime attestazioni delle parole, è che molte parole che noi riteniamo essere moderne, ecco ad esempio che riteniamo essere degli anni 70, in realtà arrivino da molto tempo prima, non solo divorzio ma anche autodeterminazione, autodecisione, autocoscienza, che sono delle parole quasi simbolo degli anni 70, sì. In realtà in italiano si iniziano a diffondere autocoscienza proprio agli inizi del secolo, autodecisione intorno al 20, autodeterminazione intorno al 30. Pensiamo a austerità o la sua variante inglese austerity. Innanzitutto l'inglese lo riprende dal francese austerité. L'italiano aveva già austerità perché si tratta chiaramente di una parola latina, di base latina, però l'italiano recupera dall'inglese l'accezione politica, ovvero il riferimento al rigore delle limitazioni che vengono imposte alla spesa pubblica, ma appunto in quel senso lì austerità, austerity, non è degli anni 70 ma la troviamo attestata nel 47. Quindi è come se certe parole già in uso nella cronaca giornalistica, nella cronaca politica, con gli anni 70 arrivassero ad un punto di rottura oltre il quale diventano di dominio pubblico, anzi diventano quasi emblema dei simboli di una certa epoca, anche se non era l'epoca della loro genesi o della loro prima diffusione. Però certo, infatti tant'è vero che li associamo proprio a quell'epoca, sì. Ecco, non potremmo mai immaginarli prima. Sì. Francesca, ti devo bloccare mentre suona anche un allarme. Un antifurto di una macchina forse parcheggiata vicino alla tua. Io voglio ricordare tuttopoli.com, che è il sito che è nato insieme al Riposo del Guerriero proprio per quanto riguarda la lingua italiana, per contribuire ad arrivare a queste 70 parole o frasi che secondo voi sono simbolo appunto degli anni 70. Grazie Francesca. Grazie e poi a voi e buona domenica. Anche a te. Poi su Tuttopoli comunque potete continuare a leggere la descrizione di queste parole, perché è un fiume in piena, Francesca Dragotto, l'avete assolutamente sentito. E intanto arrivano ancora i vostri messaggi, tra poco giochiamo, vi ricordo il numero verde per partecipare 800 24 00 24, ma adesso il gastronauta. Il gastronauta. Anni 70 addio o mica tanto? Ciao Davide Paolini, buona giornata. Buona giornata a tutti. Beh, io sono in un bellissimo posto perché sono a Vico Equense, quindi sì. Anzi a Saiano di Vico Equense, dove c'è questa grande festa dei cuochi che durerà per diversi giorni, organizzata da Gennaro Esposito, dell'attore del Saracino. E qui convergono un po' i cuochi di tutta Italia, ma anzi direi di tutte le parti del mondo, perché è un raduno incredibile di grandi chef con diciamo pranzi e cene sulle spiagge, dove vengono portati prodotti un po' da tutta Italia. Sembra di essere tornati negli anni 70, quando le feste veramente in questa costiera si facevano i raduni, erano molto note. Devo dire che, appunto, parlando di costiera, qui ormai c'è una concentrazione di grandissimi ristoranti che forse unica in Italia. L'equivalente probabilmente è solamente in Alta Badia. E un tempo, quando si diceva dove c'è turismo che si mangia male, no? Si dice sempre dove arrivano i turisti c'è un mangiare. Qui invece, come ti muovi in qualsiasi albergo, c'è un ristorante stellato. Questo grazie in primo tempo a Don Alfonso, il ristorante che è a Sant'Agata dei Degoli, che poi ha sicuramente a Gennaro Esposito, che attorno a sé ha creato veramente un mondo incredibile che ogni anno arriva qui. E Vico Equense ormai è, credo, un tempo c'erano altri paesi, però oggi credo che sia il borgo che dà più cuochi importanti in giro per l'Italia, perché non solo sono qui, ma ormai sono sparsi per tutta Italia, dal Lago d'Orta fino a non so dove. Insomma, credo che sia la zona più stellata d'Italia questa. Ecco, tra l'altro ti sento molto male in questo momento, Davide, sta andando via, sarà l'area della costiera che si sente nel telefonino. Fra l'altro, inavvertitamente Davide ha toccato proprio i miei anni 70, perché mi ricordo l'anno in cui sono stato a Vico Equense a mangiare la pizza Metro, forse è stata una delle prime pizze Metro sì, in Italia, che, vero? Ecco, a Vico Equense c'è questa pizzeria famosissima che è la pizza Metro, che molti pensano che la pizza, diciamo, a taglio di serie B, invece in questo posto è veramente di serie A. C'è stata questa grande invenzione proprio, tu dici che sei stato negli anni 70, sì, ma sì. Ti posso garantire che siamo al 2012 e dura, quindi 32 anni che continua a durare. È importante questo, molto importante. Grazie, dimmi, scusami. Ma no, ti dicevo appunto che ormai è una delle zone d'Italia questa dove assolutamente si mangia meglio. E diciamo che è un esempio per molte zone turistiche dove ancora si continua a fare una pessima cucina e quindi fare delle pessime anche figure sugli stranieri che arrivano dall'estero. Siccome qui c'è molto turismo straniero, è importante perché c'è un made in Italy della tavola davvero molto importante, perché anche ci sono appunto moltissime aziende che producono pasta e Gragnano è abbastanza vicino. Beh, c'è ben di Dio, perché frutta, verdura, beh, si trova, e poi sicuramente anche pesce, quindi in grande quantità. È veramente secondo me un biglietto da visita per il turismo italiano molto importante. Grazie Davide, buona domenica, ci sentiamo domenica prossima. Ok, a presto. Ciao. Un mistero in 24 minuti. Siamo pronti, avrei voluto parlare ancora degli anni 70, perché mancano un sacco di elementi. Per esempio manca la moda degli anni 70, la musica degli anni 70 e la televisione, che cominciava la TV a colori. Molte cose sono cambiate. Chissà che se non si riesca a fare un'altra puntata ancora su questi anni, visto l'adesione e la partecipazione da parte vostra. Facevo una riflessione però, prima di entrare poi nel vivo del gioco, che a quanto pare il 40 in qualche modo spaventa. È come se ci fossimo fermati agli anni 2000, invece siamo già nel 2012, perché per due o tre volte oggi gli ospiti hanno fatto un calcolo: dal 70 ad oggi sono passati 30 anni, invece purtroppo ne sono passati più di 40. Cioè, questo volevo solo dire, questo, che forse questo 40 spaventa, il 30 è un numero che sta un po' lì, e invece è così, insomma il tempo ne è passato. Allora cerchiamo invece di farvi portare a casa 1000 euro con il mistero in 24 minuti. Dovete risolverlo ascoltando i nostri indizi musicali. Può essere una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Il numero verde 800 24 00 24 per prenotarsi. Si parte da 1000 euro e questo è il primo indizio. indizio. Saverio da Como, buona domenica, ciao. Buona domenica a lei e agli ascoltatori. Allora Saverio, questo è un indizio che vale doppio. Cioè yeah. non che vinci 2000 euro, non è questo il senso. Vale doppio perché è una... contiene due indizi in realtà, non è soltanto uno. Allora, è sabato pomeriggio, Claudio Baglioni. Questo è il titolo, insomma la canzone la conoscerai molto bene. Certo. Saverio, siamo a 1000 euro, che cosa vuoi fare? Puoi scegliere un altro indizio, scendere a 500 euro o tentare di portarti a casa il premio? No, tenterei subito la risposta. Sì, vai. Ho pensato al calciatore Del Piero che va via dalla Juventus e si trasferisce probabilmente all'estero. Grazie Massimiliano, scusami Saverio, per te potrebbero essere 1000 euro. Ciao Saverio, okay, buona giornata. Ciao, grazie a te. Arriva adesso Massimiliano, da Ascoli Piceno. Ciao Massimiliano, sì, buongiorno. Ciao. Allora, cosa vuoi fare? No, io do la risposta. Anche tu, così, sì. D'amblè. Sabato, io penso che sia il sabato 2 giugno. Perché se non mi sbaglio è stata fatta ecco pomeriggio. Sì, però è sabato 2 giugno nel senso cosa esattamente? Sai, perché ci sono state polemiche riguardo alla parata, quindi sabato 2 giugno come data? Tu, secondo te sabato la risposta è la data giugno, però no, la parata sostanzialmente. La parata o le polemiche? Quella è una notizia, no? È la parata in sé o le polemiche sulla parata? La manifestazione in sé, la manifestazione. Quindi, ok, la parata del 2 giugno, quindi va bene, ok, questa è una risposta. Grazie Massimiliano. Ciao, buona domenica. Marta da Roma, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie Marta. E cosa posso fare per te? Do la risposta. Anche tu, anche tu vuoi 1000 euro, non vuoi rischiare di averne meno? Perché i miei gioielli sono i libri, quindi io sono un'innamorata dei libri. Questo ho capito, però davvero ti basta un indizio? Ma è pochissimo l'indizio, solo che quello che ho pensato è l'attinenza che c'è con la poesia che io ho immaginato che possa dare la spiegazione attinente al fatto di lasciare la gioventù e entrare nell'età adulta. Ecco, allora Marta, la tua risposta qual è? È il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. Certo, però le risposte del mistero in 24 minuti possono... tu dici, è una cosa molto famosa, è una poesia molto famosa e quindi ci sta, ecco, come risposta. Però di solito o è una notizia della settimana oppure è un personaggio. E quindi cosa posso fare, Marta? Non so, la risposta non è quella giusta, te lo dico, ma anche perché è un po' lontana, mai avrebbe potuto essere una poesia. Hai capito? Cosa devo fare, Marta, per te? Devo salutarti. Cosa posso fare? Ti ringrazio, mi dispiace. Grazie, buongiorno. Grazie a te, che rabbia. È vero che è qualcosa di molto conosciuto, però insomma, se potessero essere anche le poesie, qui, a meno che, ecco, I Promessi Sposi, un romanzo. Giovanni, dalla provincia di Trento, buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno. Eccomi qua, Giovanni. Allora, cosa vogliamo fare? Abbiamo un indizio solo, ancora 1000 euro. Ma no, io ci provo subito. Anche tu ti butti lì, vai. Allora, secondo me la polemica appunto legata alla parata portata avanti da Di Pietro. Ok, quindi mentre prima per Massimiliano era la parata del 2 giugno, per te invece la polemica, ok, esatto. Per quanto riguarda i soldi spesi per la parata, insomma l'abbiamo letta e ascoltata in radio e letta su tutti i giornali. Grazie Giovanni, buona domenica. Anche a voi. Il mio consiglio è sempre, quando vi dico forse meglio scrivere un altro indizio, è perché c'è forse un motivo. Rino da Latina, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Rino. Io non mi sento così sicuro, quindi mi appello all'altro indizio. Ecco, bravo, anche perché capirai una cosa. Con l'altro indizio capirai una cosa. Un mistero in 24 minuti. C'è Rino da Latina in questo momento a giocare. Abbiamo ancora solo un indizio, quindi 1000 euro. E ha voluto ascoltare però il secondo indizio. Quindi scendiamo a 500 euro. Rino, questa canzone l'avrai riconosciuta, giusto? Sì. Fabio Concato di Domenica Bestiale. Prima abbiamo avuto Sabato Pomeriggio, Baglioni, adesso Domenica Bestiale Concato. Quindi vedi che già se abbiamo aggiunto la domenica al sabato. Pensi a cosa? Al presidente della regione Lombardia? Formigoni? Sì. Perché sabato e domenica va a fare weekend? No, perché? Voglio capire. Perché è stato assente questi due giorni, dall'evento del Papa. Questa è solo questa polemica. Va bene, comunque il personaggio, Formigoni, ci sta. Va bene, grazie Rino, ciao. Grazie a te, ciao. Domenica, ciao Ivana, dalla provincia di Venezia. Ciao Ivana. Ciao. Allora Ivana, abbiamo due indizi ormai molto chiari, no? Penso che si sia capito. Però il secondo mi ha depistato. Ti ha depistato, vuol dire che forse la tua risposta non era quella giusta, allora. Però vabbè. Ormai... Vuoi mica un terzo indizio? Ma mi sa che mi depista ancora di più, non voglio... No, io dico quello che avevo pensato. Va bene, di quello che vuoi. Comunque quell'idea lì, perché avevo letto che molti personaggi così dello spettacolo si erano levati da Twitter, insomma, così questa idea, perché pensavo passerotto, cinguettio, quelle cose lì, però mi sa che non c'entra proprio niente. Ivana, scusa, non ho capito la risposta, però, perdonami. No, pensavo, avevo letto la notizia che molti personaggi dello spettacolo si erano levati da Twitter, praticamente. Ah, ok, adesso ho capito. Non avevo capito il verbo era levarsi, togliersi. Sì, si erano levati, sconnessi, avevano chiuso... Senti, ma sai che legare Twitter all'inizio della canzone Passerotto non andare via, io ti do il premio, cioè ti do il premio genialità, no? Cioè, che non esiste, però vorrei istituirlo. Grazie. Perché è una bellissima associazione, brava. Non era appunto pensavo questa cosa qua, mi è venuto questo flash. Sì, ma è un flash bello, brava, mi piace molto. Flash, comunque, peccato che non sia la giusta risposta, non però importa, ti faccio i complimenti. Mi ascolto lo stesso. Grazie, ti faccio i complimenti per l'associazione. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Cerchiamo di risolverlo sto mistero. Benedetta da Firenze, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, ciao. No, la mia risposta è già stata bruciata perché io pensavo alla polemica sulla parata del 2 giugno. Però vedi che domenica non c'entra più niente, infatti, giusto? E allora dico la visita del Papa a Milano, tento questa risposta. Tu dici questa volta la domenica c'entra, sì, ovviamente. Cioè. Grazie Benedetta, grazie, ciao, buona domenica, ciao. Domenico da Torino, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao Domenico, che cosa vuoi allora fare? Io fino al primo indizio avevo in mente una cosa, poi? Adesso Domenica Bestiale mi ha deviato un pochettino. Abbiamo anche altri indizi qua sul piatto, cosa vuoi fare? Direi che visto che mancano meno di 5 minuti sentiamo il terzo. Allora, terzo indizio, 300 euro, eccolo qua. To a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Questa è la rivisitazione di Sting di Windmills on Your Mind, una canzone molto famosa, diventata in particolare famosa grazie al caso Thomas Crown, era un film che poi è stato anche rifatto, infatti quando è stato rifatto hanno usato questa versione di Sting. La traduzione del titolo è I mulini a vento della mia mente, quindi allora Domenico, i mulini a vento, mulini a vento della mia mente. Cosa viene? Io ho detto niente, non so niente. In Olanda cosa è successo in questa settimana? È successo qualcosa? Non lo so. Guarda, dico quello che avevo pensato dall'inizio e poi tanto è sempre meglio buttarla lì. Mi era venuto in mente la morte dei tre fratelli del gruppo dei Bee Gees, visto che oggi si parlava degli anni 70. Si era partiti con Sabato, Hai ragione, sabato sera, certo. Domenico, anche l'associazione mi piace, però c'è questo terzo indizio che stona un po', purtroppo. Lo so. Grazie Domenico. Ciao. Ciao, a presto. Daniele da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Daniele. Sì, diciamo che anche la mia risposta è stata un pochino anticipata, che pensavo della visita del Papa. Ma non è, perché poi... Io non so se c'è a disposizione un quarto indizio. Sì, c'è, un minutino lo facciamo sentire. Eccolo qua. Allora lo ascolto, grazie. Amore che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Allora, questo è l'ultimo indizio che possiamo far ascoltare. Siamo a 200 euro. Daniele, amore che vieni, amore che vai. Sì, non sono convintissimo, però ci provo. Lo scandalo della Chiesa con il con quello che è successo del maggiordomo del Papa. Ha capito un attimo le notizie. Ma non è questa la risposta, mi dispiace. Ciao Daniele. Ciao. La risposta velocemente è il Divorce Hotel. Un imprenditore olandese ha aperto in Olanda questi alberghi dove si va in un weekend, sabato e domenica, si divorzia a soli 2500 euro. Quindi si discute, si parla con gli avvocati e in pochissimo tempo, nel tempo di un weekend, si fanno tutte le pratiche. E visto che divorziare costa veramente moltissimo, per tanti è una manna dal cielo. Attenzione, è finito il riposo del Guerriero, ma torna domenica prossima puntuale alle 10. Grazie a Giuseppe De Luca, redazione, Gian Gabriel Lombardo in assistenza, a Paolo Corleoni in regia e a voi. A domenica prossima, buona settimana da Stefano Gallerini.